blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca, sono Stefano. Volevo raccontarti che ieri nello studio di un collega all'Università Milano Bicocca, sollevando lo sguardo dallo schermo del computer, mi è sembrato di vedere fuori dalla finestra un oggetto strano che volava, di dimensioni contenute ma non irrilevanti. Mi sono affacciato alla finestra con un cellulare per tentare di rivederlo e possibilmente di immortalarlo. Era un drone, era effettivamente un drone che percorreva la strada lentamente con fare quasi circospetto, sembrava monitorasse o fotografasse la strada medesima, e questo mi è sembrato di rilevanza sufficiente da sottoporlo all'attenzione tua e della tua trasmissione. A presto, ciao Gianluca. Questo è un messaggio che ho trovato in segreteria dell'amico Stefano Morigi, ma ha cercato ieri, non ho potuto prendere la sua telefonata. Mi rivela qualcosa che lui l'ha inquietato. Ha visto volare una sorta di piccolo oggetto volante all'altezza delle finestre dell'ufficio del suo amico. Sa che è un drone, perché tutti sappiamo cosa sono i droni, lo sappiamo perché lo leggiamo nelle cronache dei teatri di guerra. I droni sono degli aeromobili a pilotaggio remoto che vengono usati per scopi bellici. Il drone permette di andare in una zona occupata dal nemico e sganciare una bomba, lanciare un missile, cose del genere. Fino a questo si limitavano le nostre cognizioni, ma abbiamo scoperto improvvisamente, perché ci ha detto Morigi, che i droni stanno girando anche nelle nostre città. Il drone ormai è un oggetto di uso abbastanza comune, ancora non è percepito generalmente da tutti, ma esistono. Cosa sono? Sono dei piccoli, ve li descrivo in maniera stupida, elicotterini che girano e che fanno tante cose. La Polizia Municipale di Torino è all'avanguardia in Italia, perché è la prima ad usare sistematicamente i droni. Equipaggiati di telecamera, questi congegni volanti aiutano gli agenti a smascherare i ladri d'auto o gli spacciatori di droga. I droni volano ad un'altezza massima di 150 metri e raggiungono i 50 km orari di velocità. Strumenti polivalenti possono essere utilizzati non solo per la pubblica sicurezza, ma anche per scopi di protezione civile, per la ricerca di persone scomparse, per monitorare frane o per individuare discariche abusive o altri pericoli per l'ambiente. Le attività del drone possono essere seguite anche dalla sala operativa della polizia. Gli agenti sono così in grado di tenere sotto controllo più efficacemente terreni accidentati o corsi d'acqua, filmando più da vicino rispetto a quanto potrebbe fare un elicottero. 800240024, mi serve di capire questa mattina quanto il mio pubblico abbia sentito parlare di droni. Avete mai visto un drone? Sapete cosa siano? Utilizzate droni? Giocate con i droni? Lavorate con i droni? Carlo Maria Curinga, buongiorno. Buongiorno. Carlo Maria Curinga progetta e costruisce droni. Ci dice esattamente il drone, al di là dell'uso militare che possiamo aver visto in qualche telegiornale, come viene usato e nelle nostre città girano droni? Certo, buongiorno a tutti. Il drone è un oggetto che nel corso degli ultimi 2 anni ha visto il costo per essere costruito abbattersi velocissimamente. Quanto costa farsi un drone? Un drone ad uso hobbistico, quindi per puro divertimento, di come erano prima gli aeroplani telecomandati, può arrivare a costare anche soli 300 euro, si fa per dire, ma rispetto ai 3.000 di 2 anni fa il costo si è abbattuto. E cosa ci puoi fare con un drone? Se io adesso mi comperassi un drone, cosa posso farci? Allora, per uso di divertimento sicuramente evoluzioni aeree, quindi fare delle evoluzioni che con un aeroplano comune non sono possibili, perché il drone ha 4 motori, che si muovono in modo autonomo e quindi si capovolge su se stesso, fa delle evoluzioni aeree notevoli. Quanto posso farlo muovere, cioè in che raggio posso muovere questa sorta di elicotterino radiocomandato, chiamiamolo così per semplificazione? Allora, lo contestualizzo nel panorama italiano, perché abbiamo un regolamento piuttosto rigido che ci limita la potenza dei radiocomandi, quindi si parla di circa 800 metri di raggio. Quindi e quanto può andare alto? Si arriva più o meno alla stessa altitudine, quindi 800 metri. Qui io posso, diciamo, se voglio stare nella legge, ma so benissimo che se prendo il telecomando con diciamo più fuori legge posso andare dove voglio. Assolutamente cosa ci posso attaccare a questo drone? Allora, l'uso più comune è la telecamera d'azione, quelle che vengono usate su caschi da snowboard o su biciclette per altri sport, vengono installate sulla pancia del drone per riprendere quello che viene sorvolato o la vista in prima persona del drone. Ecco, io diciamo da dove piloto il drone posso vedere quello che vede con la telecamera? Allora, su configurazioni di quel costo no, perché si richiede un ulteriore trasmettitore radio, però con circa il doppio del costo si riesce ad avere in tempo reale quello che vede la telecamera. Ecco, se io per paradosso volessi andare nella villetta di un vicino di casa, sorvolare la sua piscina o vedere cosa fa nel suo giardino recintato, posso farlo? Se me ne fregassi della legge? Assolutamente sì, per fortuna sono oggetti molto rumorosi. Quindi desterei un minimo di attenzione nel caso in cui le finestre fossero aperte, ma nel caso di finestre chiuse potrei curiosare tranquillamente a livello potenziale. Sì. Io se volessi attaccare questo drone un sacchettino, che ne so, pieno di vernice colorata per fare uno scherzo, potrei sganciare questo in testa a una persona che mi sta antipatica? Guarda, hai preso un esempio piuttosto curioso perché c'è un accessorio che viene venduto su un famosissimo sito di modellismo che è diventato uno dei punti di riferimento di chi costruisce droni, che vende una bomba di gomma che può essere riempita di liquido e che nel momento in cui impatta il terreno fa una sorta di gavettone, quindi potenzialmente... Potenzialmente posso? Sì. Fermiamoci un istante, 800 24 00 24, avete mai sentito parlare di droni? Avete mai sganciato la bomba di gomma gavettone in testa a un vostro amico? Ne avete fatto altro uso? Davide Piras, fotografo, operatore video e pilota di drone, ha un sito, sorvolare.it, ho visto un bellissimo video. Roma girata tutta con un drone, vedi delle cose mai viste perché lo fai all'alba. Tu stai usando i droni come strumento professionale? Buongiorno a tutti, sì, diciamo che l'utilizzo dei droni ha varie potenzialità, insomma ci stanno chiedendo, la cosa interessante è che sono gli stessi utenti che a seconda delle loro esigenze ci fanno le richieste più particolari, a cui ancora... È vero che gente che fa le foto, i film dei matrimoni con il drone? Sì, fanno anche quello, sì, si è arrivati anche a seguire i matrimoni, sì. Sono sempre prospettive talmente insolite che... attraggono molto, soprattutto se fatte in maniera adeguata, ecco, questo è fondamentale. Quindi tu metti delle macchine fotografiche o delle telecamere professionali sotto il drone e a richiesta fai un servizio visto dall'alto. Certo, sempre monitorando tutto ciò che facciamo dal basso, noi siamo generalmente in due, quindi chi si occupa di pilotare il drone, sempre vedendo a occhio dove si muove, e monitorando con appunto dei monitor a terra, noi riusciamo a fare le inquadrature che ci vengono suggerite o che la nostra stessa fantasia ci... Primo ascoltatore, Claudio. Buongiorno Claudio. Lei ha un drone? Buongiorno. No, non io, mio figlio. L'ha comprato la settimana scorsa, lui è negli Stati Uniti e si diverte a usarlo per fare riprese fotografiche e video con quelle telecamerine che si usano. E vi manda le foto fatte con il drone? Sì, infatti. Quanto l'ha pagato negli Stati Uniti? Non me l'ha voluto dire perché non me le dice molto queste cose, ma immagino intorno ai $200. Perché poi paga lei tanto dollari. Naturalmente. Certo, che vuol che paghi. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao. Professore di filosofia del diritto, docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Stiamo parlando di qualcosa che l'opinione pubblica non ha ancora ben sedimentato, ma è già regolamentata in qualche maniera dal punto di vista del diritto, anche della privatezza. Se io oggi prendessi un drone, potrei andare sopra casa tua, mentre tu stai magari facendo il barbecue, fare delle belle foto e metterle in internet. Ma allora, dal punto di vista dell'uso, il regolamento è proprio recente, nel senso che è stato promulgato qualche giorno fa, dopo una breve consultazione, dall'ENAC, l'ente che si occupa di organizzare l'aviazione civile. E questo regolamento è un regolamento appunto l'uso tecnico, diciamo, strumento, quindi il pilota deve avere un patentino, oltre una certa potenza e peso del mezzo, insomma, tutte queste cose. Quello che ovviamente un regolamento del genere non può regolamentare è che cosa si può fare con questo strumento. Effettivamente i problemi di privacy non sono pochi, no? Perché se uno di questi elicotterini passa davanti alla mia finestra, ma io abito al quinto piano, io penso di avere una ragionevole l'aspettativa di non avere nessuno davanti che mi guarda, io sono lì davanti nudo e mi scatto una foto, ecco, quella foto è legittimamente scattata oppure no? Perché il drone tecnicamente no, è in un luogo pubblico, non ha i piedi sul luogo privato, anzi non ha i piedi da nessuna parte, quindi effettivamente i problemi si pongono. Dal momento che l'uso in Italia mi sembra ancora abbastanza limitato o comunque non percepito dall'opinione pubblica, il problema non si è ancora posto da questo punto di vista, ma credo che tra non molto vedremo cose interessanti, ad esempio l'inseguimento di un VIP per fare le foto con un drone è ammesso o non ammesso? È questo che Davide Piras, tra i tuoi colleghi so che è un parolone, ma chi fa le paparazzate, ti risulta che possa usare droni o stia usando droni? Ma guardi, credo che sì, perché no, voglio dire, si tratta solo di utilizzare un mezzo diverso, anzi credo che saranno molto invogliati da questo. Per quanto ci riguarda, ovviamente ci dedichiamo a cose serie e non siamo mai arrivati a... No, infatti ho detto colleghi fra virgolette, ma in questo lavoro è un lavoro, c'è chi lo fa, non è che... Certo, no, ma penso di sì, insomma si tratta anzi di avvalersi di un mezzo che gli consente di essere ancora più... invadenti insomma nella privacy degli individui. No, io conosco fotografi, sono stati settimane appostati su un albero per fare una foto, così farebbero presto, partirebbe. Certamente, esatto. Quando potrebbero osservare. Carlo Maria Curinga, ti risulta che in Italia esistano associazioni, persone, tu lo fai a livello sperimentale, ma i droni che costruisci, progetti te, poi chi li usa, cosa ne fanno? Fondamentalmente quelli che costruiamo noi hanno lo scopo di sorveglianza, principalmente per esempio di cantieri edili. Oppure di mappatura del territorio, sempre nell'ambito dell'architettura e dell'ingegneria, quindi se ho bisogno di avere fotografia aerea, una cartina ad alta risoluzione del futuro cantiere che dovrò allestire, posso permettermi di farlo senza dover noleggiare un elicottero con un operatore dedicato, ecco, quindi si riesce ad avere un risultato che prima era raggiungibile solo. Quindi ci sono usi civili al di là diciamo dello spiare molto utili, sorvegliare un cantiere, vedere un terreno su cui bisogna fare delle opere. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa io ho mio figlio che si diverte da qualche giorno con il quadricottero, come è stato pubblicato. Che è un drone, praticamente è un drone, sì, quello più commerciale. Esatto, sì. €349 su internet, due telecamere. Posso aggiungere che nelle pubblicità si dice che può essere anche pilotato con il GPS, quindi andare fuori portata dei telecomandi e ritornare da solo alla base. E cosa ne sta facendo suo figlio? Quanti anni ha suo figlio? Mio figlio 14 anni, si sta divertendo come un matto perché effettivamente fa delle evoluzioni e dà una facilità in 5 minuti con il telefonino o con il tablet, può essere guidato e ho visto, i ragazzi sono veloci ad imparare, ma comunque... E chi ha fotografato suo figlio finora? Dà fastidio al cane... che non protesta? Che cerca di prenderlo, infatti io l'ho avvisato, dico non vorrei che finisce subito. Fermiamoci un istante, diamo le informazioni del traffico, riprendiamo fra un istante. Avete visto? Abbiamo un pubblico talmente ricettivo, ho parlato di qualcosa che sembrava che non esistesse nell'immaginario medio dell'italiano. Già abbiamo trovato più persone che hanno i droni, usano i droni e sanno esattamente cosa sia. Con il primo drone lanciato da una portaerei, gli Stati Uniti muovono un passo verso la rivoluzione dell'Air Force e rispondono ai progressi militari di Cina e Iran. Il passo è piuttosto verso il baratro di una guerra spersonalizzata e meno consapevole, replicano attivisti per la pace e Human Rights Watch. Niente da fare però secondo gli esperti. Questo è il futuro della guerra, dicono dal Centro Studi Strategici Internazionali di Washington. Una guerra un po' Siamo meno... Siamo nuovamente tornati a parlare dei droni ad uso militare. Vorremmo capire anche un po' la differenza, sono gli stessi, qual è l'uso se ne fanno i militari. Risponde a noi Gianandrea Gagliani. Buongiorno Gianandrea. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Dirige il mensile web Analisi Difesa, collabora con il Sole 24 Ore, lo abbiamo interrotto mentre era in un impianto di risalita, sta lasciando con il figlio, quindi questa cosa l'abbiamo saputa grazie a un drone. Ti ringrazio, ma dammi esattamente il punto. Questi giocattoli che vedo che stanno girando anche in Italia, visto che l'ha visto un amico dalla finestra del suo ufficio, che il figlio è un ascoltatore, lo sta usando, e che Carlo Maria Curinga li progetta, li dà ai cantieristi per sorvegliare il cantiere, invece come uso militare sono molto diversi. A cosa servono? Loro sono nati per uso militare. Allora, noi abbiamo già dei droni molto piccoli, simili a quelli che si usano appunto per scopi civili e per scopi ludici, insomma ne parlavate pochi minuti fa, e sono i mini drone, vengono utilizzati dai militari, guarda, sono come aeromodelli, e io li ho visti impiegare anche dai nostri militari in Iraq e in Afghanistan. Li lanci con una mano, come si lancia un aviomodello sulle piste in prato dove si va a far volare i modellini, e ha un'autonomia ovviamente limitata, ma è un perfetto strumento apposta per sorvegliare i dintorni di un accampamento. Oppure ti faccio un esempio: una colonna di blindati di veicoli in Afghanistan deve attraversare un passo e non sa se in quel passo ci sono talebani pronti a fargli un agguato oppure se invece la strada è libera. Il mini drone decolla, ha una sua autonomia limitata ma sufficiente a tenere sotto controllo il passo e i suoi dintorni mentre la colonna transita, quindi a scopi di ricognizione, di sorveglianza. Sì, ma può anche ammazzare una persona un drone, anche a questo serve. Beh, e questi piccolini no. Poi passiamo, dicevo, a droni più importanti, quelli divenuti famosi con la guerra in Kosovo del 99, i Predator americani, no? Dopo di questi che potevano imbarcare un paio di missili Hellfire con i quali gli americani hanno fatto fuori alcuni leader di Al-Qaeda in Yemen e in altre zone del mondo. Poi hanno sviluppato mezzi più potenti come i Reaper, che oggi sono stati acquisiti anche dalla Francia e dall'Italia, e purtroppo noi riusciamo a comprarli dagli americani, ma gli americani fanno fatica a venderci gli armamenti, i kit d'armamento con i quali questi velivoli da perfetti strumenti di sorveglianza diventano anche perfetti killer. Senti Gianandrea, visto che noi abbiamo un pubblico che ancora ogni tanto ci parla delle scie chimiche e di cose del genere, ma la nostra intelligence ti risulta che usi dei droni? No, noi abbiamo uno stormo dell'aeronautica, il 32esimo stormo dell'aeronautica militare che sta ad Amendola, a Foggia, che impiega 12 droni di questa categoria, diciamo quelli a media altitudine e alta autonomia. Sono grandi, sono i Predator e i più grandi ancora Reaper. E li abbiamo usati in Afghanistan e proprio recentemente i Reaper che abbiamo acquisito recentemente dagli Stati Uniti li abbiamo schierati a Herat, ovviamente ancora senza armi, quindi noi li usiamo solo per compiti di sorveglianza. No, ma mi domandavo, visto che il terrore, siamo tutti spiati, tutti intercettati, c'è il caso che giri anche qualche drone per capire un po' cosa succede in giro, che esista questa sorta di idea del drone che gira per le città, come ha visto il nostro amico? Ma diciamo, ancora oggi i droni sono stati impiegati sulle città, e questo a titolo ufficiale, io parlo dei droni come strumenti militari, ovviamente anche i servizi di intelligence li possono utilizzare, in Italia sono in dotazione all'aeronautica, li abbiamo impiegati sulle città per sorvegliare particolari eventi, un summit importante, le Olimpiadi invernali a Torino. C'era un dispositivo antiterrorismo che comprendeva missili antiaerei, caccia e anche i droni per la sorveglianza. Quindi dobbiamo farci il conto. Alessandro, buongiorno Alessandro, vende droni. Buongiorno. Allora, io praticamente volevo semplicemente dire questo. Lei è un dronista praticamente. Sì, un dronista, sì. Noi vendiamo droni e facciamo anche servizi. Facciamo servizi sul monitoraggio di cave, controllo di discariche, salvaguardia delle coste, disaster management, analisi volumetriche perché e tracciamento di curve di livello. Di fatto il nostro drone si riesce a pianificare il volo. Ma se io mi compro un drone da lei, lei mi chiede cosa ne faccio? Io potrei farci qualunque cosa. Certo che glielo chiedo, però è evidente che il nostro ha uno scopo esclusivamente di tipo civile e poi dopo logicamente la responsabilità è di colui che intende utilizzare. Quanto sta in aria un drone? Quanta autonomia ha? Ma riesce a stare praticamente 45 minuti. 45 minuti, quindi. E noi riusciamo a rilevare qualcosa come un centinaio di ettari. Io in città posso usarlo, anche nelle città si può usare, o soltanto in zone aperte? Prevalentemente noi lo stiamo utilizzando in zone aperte, però è evidente che si può utilizzare anche in città. Qualsiasi condizione atmosferica, giorno, notte, o soltanto quando è bel tempo? Normalmente quando è bel tempo, perché è evidente che sono strumenti estremamente piccoli, contenuti, non hanno, e tra l'altro anche estremamente funzionali, perché lei può benissimo spostarsi con una piccola valigetta, in pochissimi minuti tirar fuori di fatto questo drone, è composto di 3 pezzi, fa il piano di volo, struttura il piano di volo direttamente dal suo computer lì in campagna, lancia il drone e questo rileva di fatto seguendo il piano di volo e poi viene Le faccio una domanda, le faccio un po' di domande assurde. Io abito a Prati, volessi mandare un drone da casa mia sopra il Vaticano a vedere che fa il Papa, e chi me lo impedisce? Io penso nessuno. Adesso posso c'è fare una normativa che sta uscendo. Sì, ma finora se lo faccio non è che uno mi tira giù a colpi dalla barda la Guardia Svizzera. Penso proprio di no, anche perché non è così semplice riuscire a prendere in Ecco, maniera. Se io adesso da dove sto qui alla radio lo mandassi sopra il Quirinale, che lì ad aria saranno 300 metri, che succede? Sì. Che succede? Lei riesce a rilevare di fatto... Posso fare foto al Presidente della Repubblica mentre passeggio nei giardini? Probabilmente sì, perché lei di fatto rileva con una precisione al centimetro che cosa c'è sotto su quel territorio. No, mi fa ridere, perché sotto ci saranno 300 autoblinde, 200 cannoni e 700 guardie con la lancia. Io col mio drone vado sopra e potrei sganciargli sopra un gavettone d'acqua, ecco, per dirlo nella migliore delle ipotesi. Sì, vabbè, adesso è evidente che... però in questo momento tecnicamente è possibile. Ma come stava dicendo, mi sembra l'altro ascoltatore, esistono anche queste cose. La nostra è una tecnologia, ripeto, civile, che serve esclusivamente ad acquisire informazioni in tempi estremamente brevi per poter eventualmente intervenire in caso appunto anche di situazioni, le stavo dicendo. No, io faccio giornalista, volessi informazioni invece di andare per strada, parto col mio drone, faccio fare un girettino sopra i sacri palazzi, vedo che succede. Lei praticamente non fa altro che, nel momento in cui lancia il suo drone, non fa altro che... mappare di fatto il territorio, come le sto dicendo, il nostro ha una caratteristica specifica, che è quella di mappare il territorio e di restituirlo in terza dimensione. Quindi lei addirittura c'ha non soltanto la X, la Y, ma c'ha anche la Z. Quindi, quindi anche la profondità. No, mi ha telefonato un ascoltatore, adesso ha dato il telefono, non riesco a rintracciarlo. Dice che lui abita alle parti dove vive Matteo Renzi, che tutti i giorni va a farsi una corsettina lungo una strada senza scorta. Dice però in questa strada vede volare di droni, stiamo cercando di rintracciarlo, ma mi ha dato questa notizia. È possibile, diciamo, che le scorte di polizia, i sistemi di sicurezza già li usino i droni per tenere sott'occhio delle persone che non vogliono dare troppo nell'occhio del fatto che siano scortate? Ma io ritengo proprio di sì. Adesso non so se la possibilità di avere un diretto, cioè come dire, un collegamento diretto tra drone e centrale, diciamo, operativa, per poterlo controllare in tempo reale, questo... Beh, uno parcheggia a un chilometro la macchina, parte il drone e sorveglia a distanza. Sì, appunto, ripeto, in tempo reale dovrebbe poterlo fare, quindi dovrebbe avere un collegamento, diciamo, radio, per poter trasmettere le informazioni, diciamo, visive in maniera da poter capire che cosa sta succedendo in quel momento. Io questo non sono in grado di poterle rispondere. Sì, ma come ci ha detto, vediamo se ancora Carlo Maria Curinga al telefono, può esistere questo tipo? No, è caduto. Comunque, ma va detto prima Curinga che esistono quelli più sofisticati, che hanno possibilità di essere, di avere un feedback a tempo reale di quello che vede la telecamera, quindi volendo il drone ci può sorvegliare a distanza. Quindi se da oggi noi temiamo che qualcuno ci intercetti il telefono, il sito internet, pensiamo che potremmo avere un drone sopra la testa e qualcuno vede anche quello che facciamo fisicamente. Grazie, a domani.